68. Zuppa di purè di piselli secchi. Dato che i piselli siano mezzo litro, metteteli al fuoco in 2 litri d'acqua e frattanto fate un soffritto con mezza cipolla, una carota, 2 pezzi di sedano lunghi un dito e qualche gambo di aneto se lo avete e, tritato il tutto, mettetelo al fuoco con un pezzo di burro e fategli prendere il rosso. Versate allora i piselli mezzo cotti, escolati dall'acqua, conditeli con sale e pepe, fate loro sugare tutto il soffritto, poi versate sugo di pomodoro e l'acqua degli stessi piselli per tirarli a cottura. Passate ogni cosa per istaccio e se il purè riescisse troppo denso, aggiungete acqua calda. Assaggiatelo per aggiungere un altro pezzetto di burro che probabilmente occorre. Il pane tagliatelo a quadrettini e friggetelo nel burro. Se vi porrete attenzione, sentirete una minestra che sembra fatta sul brodo. Questa dose potrà servire per 10 o 12 persone.